Guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Guardie o Ladri, la trasmissione che sulle onde di Radio 24 alle 19.30 da quasi due anni vi accompagna ogni sabato. Di cosa parliamo in questa trasmissione? Ovviamente di temi di sicurezza e legalità. Oggi proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del pentitismo. Ricorderete, la scorsa settimana abbiamo ascoltato la voce di un avvocato difensore di collaboratori di giustizia e abbiamo sentito la prima testimonianza di un pentito di 'Ndrangheta. Oggi andiamo avanti con il nostro viaggio e sentiamo un'altra campana, la voce di chi ha fatto parte di processi in cui c'erano anche dei pentiti o comunque, avendo per anni lavorato all'interno di una direzione distrettuale antimafia, segnatamente quella di Napoli, ha cartucce da sparare per venire incontro ai ragionamenti che stiamo facendo sul pentitismo e sul ruolo dei pentiti. Ed è quindi con piacere che do il buonasera a Maurizio Fumo, oggi in Cassazione, ma fino a qualche anno fa in direzione distrettuale antimafia di Napoli. Buonasera Fumo. Buonasera. Allora, ricordiamo che Fumo ha anche scritto un libro per le edizioni Simone nel 2001 dell'azione collaborativa Pentimento e Trattamento Sanzionatorio. Le chiedo subito, a bruciapelo Fumo, ma i pentiti servono ancora? Ma secondo me sì, servono ancora, perché i pentiti, diciamo, vivono parallelamente alla sopravvivenza delle associazioni mafiose e allora continuano ad essere lo strumento principe per il contrasto, per scoprire quello che è, diciamo, il reato tipico dell'associazione mafiosa, cioè il 416 bis. Ecco, ma allora le chiedo questo, perché è una domanda che abbiamo già fatto alla nostra ospite la scorsa settimana, ma che ripeto anche a lei per avere la sua opinione. Ma allora perché di pentitismo non si parla più, o se se ne parla in termini dubitativi o ancora solo di denuncia, come ha fatto il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che lo ha appunto ancora recentemente ricordato? Chi è che ha voglia, come dire, di scrollarsi di dorso e dimenticarsi il ruolo fondamentale dei pentiti? Guardi, le polemiche hanno sempre accompagnato il fenomeno del pentitismo, sia quando non era regolato o era regolato in maniera molto approssimativa della legge, sia quando è venuta fuori la prima legge organica sui pentiti, sia quando è venuta fuori la legge di riforma del 2001, la 45 del 2001. Il fenomeno di per sé è un fenomeno che chiaramente suscita perplessità e quindi inevitabilmente polemiche, però io ho l'impressione che spesso queste polemiche siano anche un po' strumentali, nel senso che c'è qualcuno che evidentemente teme non solo la gestione dei pentiti, che può essere più o meno corretta, più o meno professionale, ma teme i pentiti proprio in quanto fenomeno, in quanto persone depositarie di verità scomode che solo attraverso loro possono essere, diciamo, rivelate, scoperte. Ecco, questo è correttissimo, tanto che qualcuno tra questi pentiti che noi abbiamo ascoltato ci ha anche detto e ci dirà ancora che quando si va a toccare il lato, poi il profilo politico, no? Quando si vanno a fare i nomi dei politici, lì le cose cominciano ad incartarsi. Ecco, nella sua esperienza passata le è capitato di avere qualche pentito che faceva nomi di politici? Sì, è capitato inevitabilmente di politici a livello locale e a livello un po' più su. E anzi, se posso riferire un fatto abbastanza simpatico. Assolutamente sì, prego. Tra virgolette, una volta un pentito di Pomigliano d'Arco, che è un grosso paese vicino Napoli, le falde del Vesuvio, disse che loro chiedevano agli imprenditori una tangente del 3%, e i politici, così li indicava genericamente, del 5%. Quando io chiesi, ma allora non c'è differenza tra politici e camorristi, lui mi disse, come no, la differenza è il 2%. Ecco, questa effettivamente è una battuta tragica, però spesso reale. Ovviamente non si tratta di criminalizzare l'intera classe politica campana, in questo caso segnatamente, ma è inutile nasconderselo: sul territorio le connivenze tra i clan della Camorra e i politici locali ci sono, e trasversali, da destra a sinistra, passando per il centro, senza guardare in faccia a nessuno. Le chiedo questo, Fumo, ma in questo caso, quando si va a toccare il livello politico, le indagini sono più complesse e anche il ruolo delle forze dell'ordine e della magistratura è più complesso? Le indagini sono oggettivamente più complesse perché si tratta già di accertare delle condotte, dei comportamenti che sono abbastanza sfumati e sfuggenti. Per quello che riguarda la collaborazione delle forze di polizia, io devo dire che è la mia esperienza personale, non ho mai trovato ostacoli o reticenze di altra natura. Naturalmente tutto questo dipende dal fatto, o perlomeno dipende anche dal fatto, che c'è, speriamo che continui ad essere, un rapporto diretto tra il pubblico ministero inquirente e le forze della polizia giudiziaria. E questo è fondamentale, no? È fondamentale secondo me. Siccome sento parlare di modifiche e riforme anche in questo senso, cioè si vorrebbe recidere questo rapporto, questo legame diretto che c'è tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, non so a questo punto se le indagini potrebbero procedere con altrettanta speditezza. Ma infatti lei sta toccando un tema che riconduce un po' alle riflessioni che facevo io inizialmente e che ho fatto anche nella scorsa settimana, vale a dire questo clima. Poi alla politica non è che gliene freghi più di tanto di mettere mano a questa materia, di rafforzarla, perché poi mettere mano vuol dire rafforzarla, perché è indubbio che dal 2001 a oggi la normativa abbia bisogno di una, come dire, riverniciata. Però un conto è riverniciare, rinfrescare, quindi dare un nuovo aspetto brillante alla casa, un conto è abbattere le fondamenta, no? Mi pare ovvio. Ecco, dovesse appunto lei, suggerire qualcosa al legislatore per rendere più efficace l'insieme delle regole e delle norme, che cosa proporrebbe Fumo? Lei mi chiede un'opinione sul versante delle indagini o sul versante processuale? No, sul versante processuale. Sul versante processuale. Non c'è dubbio, qui è diventata un luogo comune, una cantilena, che il vero problema è la durata e la lunghezza dei processi. Io sono in Cassazione da quasi 10 anni e mi pare di aver capito che alcuni procedimenti che ho contribuito a istruire io sono ancora in fase di dibattimento, questo già la dice lunga. Certo. E allora la cosa più elementare che mi viene in mente per velocizzare queste procedure potrebbe essere quello di incidere profondamente sul meccanismo delle notifiche, perché spesso e volentieri le notifiche non vanno a buon fine perché o sono oggettivamente difficili o perché l'imputato fa di tutto perché la notifica non avvenga. E allora responsabilizzare di più il difensore, obbligare l'imputato, prevedere per obbligo che l'imputato elegga domicilio presso il difensore e effettuare la notifica presso il difensore, già sarebbe una piccolissima modifica che potrebbe accorciare di non poco i tempi processuali. Purtroppo questo incontra un'ostilità veramente fortissima da parte proprio della classe forense. Certo. E questa è la prima cosa che mi viene in mente. E questa, guardi, le rivoluzioni iniziano dalle piccole cose, no? Esatto. Quindi sicuramente questa è una riflessione molto intelligente che lei ha fatto, io l'appoggio totalmente. Allora, cominciamo con questa piccola norma da cambiare, cari parlamentari che ci state ascoltando e care istituzioni e forze politiche. Allora, basterebbe, ci ricorda Fumo, una cosa banale: fare leggere presso il domicilio del difensore il domicilio appunto presso il quale fare le notifiche delle persone coinvolte in questi processi. Una cosa veramente banale. Avete intenzione di cambiarla? Ma vediamo un pochettino. Un'altra cosa, Fumo, che lei vorrebbe indicare, suggerire? Sempre parlando di minimis, per esempio, per quello che riguarda le consulenze tecniche o le perizie, e i consulenti, i periti, gli esperti vengono ricompensati anche con il criterio delle vacazioni, cioè del tempo perso, il che significa che quanto più tempo passa, tanto più è alto il compenso del perito o del consulente tecnico. Ecco, questo non penso di dover proseguire. No, lei è chiarissimo. Avremmo l'interesse contrario, no? Che la perizia e la consulenza fossero consegnate nel più breve tempo possibile, quindi si dovrebbe premiare chi fa presto e non chi fa tardi. Assolutamente, sono d'accordo con lei anche su questa seconda proposta. Io la ringrazio per il suo intervento. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto di Guardie o Ladri, chi vi parla è Roberto Galullo, subito il nostro indirizzo mail al quale scrivere guardieoladri@radio24.it, vi do anche il mio blog al quale potrete scrivere ed accedere http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Di cosa stiamo parlando oggi? È la seconda puntata del nostro viaggio nel pentitismo. Abbiamo incentrato la nostra attenzione e accesi i riflettori in particolar modo sui pentiti ed ex collaboratori di giustizia che provengono dalle file dell''Ndrangheta, come sapete, la più temibile organizzazione criminale in Europa e forse nel mondo. Nella prima parte della puntata oggi abbiamo ascoltato la voce e la testimonianza molto interessante di un magistrato, Maurizio Fumo, ex direzione distrettuale antimafia di Napoli, oggi in Cassazione. E ora ascoltiamo la storia di un altro pentito di 'Ndrangheta. Come abbiamo fatto la scorsa settimana, anche in questa puntata noi non potremo svelare l'identità di questo pentito per questioni di riservatezza e per tutelare anche l'incolumità fisica di questa persona, ed infatti sentirete la sua voce criptata. Lo chiameremo genericamente dunque Antonio. Posso dirvi che è calabrese, che ha una sessantina d'anni, e più di questo però non posso aggiungere. Do quindi il benvenuto e il buonasera ad Antonio. Buonasera Antonio. Ah, buonasera a lei, dottore. Allora, ci spieghi il suo passato. Lei che tipo di esperienza ha alle spalle? È stato un criminale? È stato un uomo di qualche cosca? È stato un uomo di 'Ndrangheta? Ha ucciso, ha ammazzato, ha spacciato? Cosa ha fatto nella sua vita? Allora, di nuovo buongiorno. Io purtroppo della mia vita l'ho rovinata. Io ho studiato, però mi sono lasciato convincere dalle cosche calabrese a affiliarmi a loro. Quindi è stato un affiliato di 'Ndrangheta? Esatto, sono stato un affiliato di 'Ndrangheta e avevo il controllo del traffico internazionale di stupefacenti per l'Alta Italia. Quindi diciamo così, una persona che aveva anche un ruolo di responsabilità, di fiducia all'interno della cosca alla quale lei apparteneva? Sì, avevo molta fiducia, avevo molto potere a quei tempi. Facciamo un salto temporale. Ad un certo punto lei decide di collaborare con la giustizia invece, quindi di testimoniare contro quelli che fino al giorno prima o a poco tempo prima erano i suoi, tra virgolette, datori di lavoro. Perché lo ha fatto? Ma l'ho fatto perché ho avuto una crisi di coscienza in quanto una mia familiare era caduta nel tunnel della droga e io ho pensato che poteva essere quella droga che io facevo circolare in Italia. Quindi lei ha avuto una crisi di coscienza, questo l'ha portato, diciamo così, a testimoniare e a diventare un collaboratore di giustizia. Abbiamo detto per 6 anni, che anni sono stati per lei, Antonio? Ma non sono stati anni belli. Io vi posso dire che sono stato prima alloggiato in una caserma di polizia, poi sono stato trasferito in un paese dell'Alta Italia dove vivevo con misero milione al mese, 500 euro di oggi. Con la sua famiglia viveva o da solo? Io per un po' ho vissuto da solo, poi ho vissuto anche con i miei figli. È stato braccato dalla cosca alla quale apparteneva oppure no? Eh sì, sono stato braccato e lo sono tuttora. Tuttora pende su di me una condanna a morte fatta dalla 'Ndrangheta. E queste condanne, come sanno tante persone che sono attente a queste cose, prima o poi verranno eseguite. Non ha importanza il tempo, ma verranno eseguite. Quindi lei si sente un morto che cammina, ha detto in altre parole? Sì, in altre parole così. Vive ancora in Calabria oppure in Alta Italia? No, vivo al centro. Vive al centro, di più ovviamente non voglio sapere. Parliamo invece di altro, Antonio. Lei rimane per 6 anni e collabora. E la sua collaborazione che frutti porta allo Stato, cioè a tutti noi, ricordiamola ai radioascoltatori. Se non ci fossero persone come Antonio, probabilmente la 'Ndrangheta, che è già la più potente organizzazione criminale in Europa e tra le più potenti al mondo, probabilmente si sarebbe già impadronita totalmente del nostro Stato, perché non conosce confini la sua forza. Allora, che tipo di benefici ha avuto? Allora, con le mie dichiarazioni sono stati processate e condannate circa 100 persone dai massimi livelli della 'ndrangheta. Ecco, ma ad un certo punto lei esce da questo regime di protezione, perché? Perché non ce la facevo più a vivere e volevo cercare di poter fare un'attività. Essendo sotto programma non potevo usare né il nome di copertura né il mio nome per fare un'attività e quindi mi sono consigliato con un magistrato, il quale mi ha detto l'unico modo è che tu fuoriesci, e così ho fatto l'istanza per fuoriuscire, pensando che avrei avuto qualche centinaia di milioni. Invece ho avuto solamente 21 milioni. Ecco, ripetiamolo bene, 21 milioni delle vecchie lire sono centesimo più, centesimo meno, 11.000 euro. E oggi come vive Antonio? Io oggi vivo con una pensione di invalidità. Continua a collaborare in qualche modo con lo Stato oppure rifiuta questa parola? Ma non ho mai rifiutato, mi hanno sempre chiamato e sempre sono andato. Ultimamente, non più di una settimana fa, mi hanno chiamato a testimoniare come enciclopedia vivente. Ecco, questo è importante. Io lei probabilmente questo non lo sa, ed è, come dire, logico che non lo sappia, ma sono 2 anni che in radio e sul giornale di cui sono inviato, il Sole 24 Ore, batto il tasto e, come dire, seguo molto da vicino la 'ndrangheta e la sua potenza economica, innanzitutto che vuol dire potere allo stato puro in politica, nelle amministrazioni, nella borsa e nella finanza. E quindi le chiedo questo, lei probabilmente per la sua vita non avrà più di tanto timore, anche se la paura è naturale in un uomo, ma come vive la sua famiglia, le chiedo invece, la sua paura? Allora, i miei figli purtroppo sono molto preoccupati e sono molto in tensione, e anche loro vivono nella città del centro, non con me attualmente, sono grandi, però hanno molta paura di esporsi, anche di fare dei concorsi pubblici, perché hanno paura che il cognome possa essere rintracciato e che la vendetta si abbatta anche su di loro. Lei è convinto che la sua cosca, non la sua attuale, ma la cosca della quale faceva parte, non sappia dove lei si trova? Ma guardi, io conoscendo bene addentro la forza e le entrate che hanno loro, le entrate diciamo a livello personale, nel senso di conoscenze e intimazione anche a livelli alti dello Stato, io sono sicuro che loro sappiano dove più o meno io possa essere e che aspettano il momento opportuno per fare quello che devono fare. Allora, ovviamente da questi microfoni sapete che dedicherò alcune puntate al tema del testimone di giustizia, collaboratori di giustizia, pentiti, chiamiamoli come vogliamo. Si leva alto il grido nei confronti degli uomini dello Stato, del Ministero dell'Interno, per cercare di ricondurre a logica la protezione di chi allo Stato sta dando o ha dato molto per combattere i fenomeni della criminalità organizzata. Quindi io dico grazie ad Antonio per quello che lei ha fatto per dare, dico, nulla più che uno schiaffo alla 'ndrangheta, perché purtroppo anche 100 persone in carcere della 'ndrangheta sono nulla rispetto alla forza che ha. La ringrazio quindi da parte della società civile, che spera che questo Stato non sia divorato dalla forza delle mafie, e le auguro veramente buona fortuna, e lei, come chiunque altro si trovi in una sua condizione, sa di poter contare su di me e su questa radio, fino a che esisterà la mia voce e la voce di questa radio, per portare avanti battaglie di civiltà. Grazie ancora Antonio. La puntata si avvia a conclusione, Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per la terza ed ultima puntata del nostro viaggio nel pentitismo. Grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi auguro una buona serata.